Alt alla D'Urso dopo il secondo flop senza autocritica. Stasera che sera, leggo dal Corriere della Sera, è stato chiuso per gli ascolti. Ma Barbara D'Urso dice non facciatevi illusioni, scrive il Corriere, nessuna retromarcia dopo l'imbarazzante intervista a Francesco Nuti. Sono stata criticata, ma in realtà volevamo toccare il dramma, mostrare l'imbarazzo di Nuti, perché siamo convinti che guardare negli occhi il dolore di Francesco serva a tutti noi a farci delle domande, a non metterla testa sotto la sabbia, a guardare, a capire. Questo Barbara D'Urso. Vabbè, noi parliamo del film di Vallanzasca nel nostro sondaggio. La Lega dice un film su Vallanzasca? Boicottatelo. Siete d'accordo? Votate il sondaggio su radio24.it. Ne parliamo dopo. 24 mattino. L'intervista. Alle 8:22 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Eccoci qui con il ministro per l'attuazione del programma di governo Gianfranco Rotondi. Ministro, buongiorno. Buongiorno, salve. Senta, avrà letto anche lei le intercettazioni, no? Come tutti. Oggi ce n'è un'altra bella vagonata sui quotidiani, per chi le vuole leggere. Al di là, le chiedo... Lei mi vuole subito aggredire, nel senso che io sono il ministro del programma. Nel nostro programma c'era di fare una legge che impedisse ai giornali di pubblicare i fatti privati col pretesto delle inchieste del cittadino o del premier, fa lo stesso. Purtroppo dopo 2 anni e mezzo devo ammetterle che non abbiamo fatto nessuna legge e che ognuno è libero di sputtanare chi vuole mettendo colloqui privati sui giornali. Ci vorrebbe, da questo punto di vista, sportivamente le concedo l'1-0. Quindi ci voleva questa legge, dice. Certo che ci voleva, ma ci voleva non per Berlusconi, ci voleva perché diventa una cosa molto facile oggi, col pretesto di un'inchiesta, raccontare colloqui privati che magari con l'inchiesta non hanno niente a che fare, per cui chiunque oggi parli al telefono deve mettere nel conto che sia possibile intercettare, ascoltare, e guardi che alla fine l'inchiesta è un pretesto come tanti altri, perché io per esempio non sono il politico che si mette paura di essere intercettato, perché so, avendo fatto il giornalista e poi il politico, sì, e avendo esperienze quotidiane in tal senso di gente che me lo viene a raccontare, che oggi illegalmente si può intercettare molto più efficacemente di quando non faccia ad esempio legalmente la magistratura, sì. Quindi una legge che disciplini la pubblicabilità dei colloqui privati ci era vuole. Necessaria, dico. Senta, era perché era, in queste ormai, condizioni ormai. Senta, lei è anche cattolico, certo. C'è molto imbarazzo, pare, negli ambienti cattolici, anche in politici cattolici. Oggi il vicepresidente della Camera Lupi dicendo certo è, come dice lei, è una vergogna leggere tutto, però io vivo in modo diverso. Ecco, lo spaccato che esce dalle frequentazioni del premier la imbarazza? Ma io le posso essere proprio sincero, non mi imbarazza per tutta una serie di ragioni che, se vuole, approfondisco. La prima è che il Signore ha messo a nostra disposizione una collezione di peccati talmente varia che davvero ha fatto bene subito ad aggiungere chi è senza peccato scagli la prima pietra, perché la vita umana è fatta di cadute ed è fatta anche di atti che piacciono al Signore, quindi nessuno di noi può dire io no. Detto questo, a me non scandalizza il fatto che Berlusconi faccia delle feste e soprattutto non credo alla rappresentazione che viene fatta in questi giorni di queste feste come una fiera dell'illiceità, della promiscuità, perché io ho il dovere di credere come cittadino e come ministro al mio presidente, al presidente votato dagli italiani, che ha sempre detto di vivere gioiosamente, ma assolutamente non solo nel rispetto della legge, ma lui dice del decoro e dell'eleganza. Però ministro, qui c'è... È il Berlusconi che conosco io, è questo qui. È quello, però ministro... Lo devo riprovare e poi le posso dire, se lei legge bene le intercettazioni, insomma, un occhio furbo ci fa caso che c'è una mescolanza di chi si butta avanti raccontando palle, e al telefono si sa, le palle si raccontano, e di chi dice delle cose, la festa mi è piaciuta, non sì, mi è piaciuta. Però Ministro, ci sono anche persone che sembra che utilizzino Berlusconi come un bancomat, cioè la presunta ricattabilità di un Presidente del Consiglio, nel senso c'è chi dice mi ha dato 5.000 euro, voglio 5.000 euro, gli appartamenti intestati, almeno a leggere dalle carte. La generosità di Berlusconi, e parla uno come lei da giornalista saprà, perché in questo ambiente si sa tutto di tutti, io non sono certamente uno che va a chiedere soldi a Berlusconi, ministeri sì qualche volta, voglio dire, ma la generosità di Berlusconi è sconfinata ed è assolutamente diretta verso chiunque, e qui mi fermo perché non voglio fare come quelli che dicono ha fatto la beneficenza, ha fatto bene di qua, ha fatto bene di là. Ma non è io credo che non ci sia nemmeno una valutazione etica. Ma non è, Ministro, io credo rischio che Berlusconi senta frequentemente il bisogno di soccorrere chi di essere generoso, non è rischio di ricattabilità, presidente. Ma no, uno è ricattato se ha qualcosa da nascondere. Che cosa vuole che ci sia da nascondere? Io sa cosa dico dell'inchiesta di Milano. Mi sorprende che si siano spesi centinaia di migliaia di euro per intercettare cose che al limite confermano cose che volentieri Berlusconi racconta in interviste, in dichiarazioni, sì, in conversazioni, sì. Che a lui piacciono le donne lo sa tutto il mondo, che ami frequentare ambienti allegri in cui si balla, si canta, e lui a cantare, non è che sì. Voglio dire ci vuol molto, che poi dopo uno voglia dire ma se ci sono tutte quelle belle donne, si canta e si balla, si fa anche dell'altro, beh questa è una malignità che ci può anche stare, perché si sa che ognuno quando vede che si fa una festa con belle donne la sera, si canta, è invidioso, si balla, è invidia. E siamo portati a dire chissà che cosa succede. Senta, ma nel concludere, neanche a livello internazionale teme che l'immagine possa essere scritta? Cioè l'idea che un Presidente del Consiglio faccia delle feste... Questo lo temo, ma dovevano temerlo i giudici che si sono buttati in questa iniziativa spericolata e i giornali che tengono bordone, perché veda, io non sono uno che dice ma la Procura di Milano, veda, la Procura di Milano, tanto per essere completi nella rappresentazione, ha dei meriti straordinari che non sono nemmeno conosciuti, ad esempio combatte la mafia che tenta di arrampicarsi a Milano, anzi le mafie, è in prima linea nella prevenzione contro il terrorismo, sta compiendo azioni che meritano l'applauso di tutti gli italiani e non è una procura che sia poco esposta da questo punto di vista, che poi dentro ci stia pure chi decide di buttare mezzo milione di euro per intercettare le ragazze che vanno alle feste di Berlusconi, io questo lo troverei un peccato veniale a fronte di tanti meriti se appunto non avesse la ricaduta di limitare la libertà personale non solo del Premier ma del cittadino e di tanti altri cittadini. Mi risponde... E per giunta di sputtanare l'Italia, perché si rappresenta una realtà diversa da quella che è, con una ricaduta di straordinario danno per l'immagine, Ministro, del Paese. Mi risponda con un sì o con un no, che sono davvero in chiusura. Secondo lei Berlusconi dovrebbe dimettersi o fare un passo indietro? Deve fare un passo avanti, restare Premier, completare il programma di governo e dopo saranno i cittadini a giudicare. La ringrazio, buona giornata. Buona giornata. Gianfranco Lontoni, ministro per l'attuazione del programma di governo. Ci fermiamo per pubblicità e meteo e poi parliamo del film di Vallanzasca che esce venerdì. E racconta la vita criminale di Renato Vallanzasca, e per questo la Lega, un esponente della Lega che sarà il nostro ospite, dice va boicottato. Che ne pensate? Radio24.it per votare, come state facendo in molti, per ora prevalgono i no, votate lì su Radio24.it oppure 800240024 tra poco. 24 mattino. E allora alle 8:36 minuti esce questo weekend nelle sale di tutta Italia il film dedicato a Renato Vallanzasca, fatto da Michele Placido, che fa molto discutere, perché c'è chi dice quel film che racconta le gesta di un criminale va boicottato. Io sono o blanco o nero, gris non voglio essere in mia vita. Bianco o nero? Le minga più il caso di accontentarsi degli spicci qua. Ci vuole in squadra e ci vogliono in fuori classe. Quindi ho chiamato il Sergio che ce l'ha nel sangue. Poi con il Mitra fa quello che vuole. Poi c'è il Faustino. Faustino siamo amici d'infanzia, abbiamo fatto insieme anche il riformatorio. E vabbè, e poi, è il trailer, forse avete capito, del film che racconta Renato Vallanzasca la sua vita. Sapete chi è Renato Vallanzasca, se non sapete, un criminale italiano, anni 70, rapine, omicidi, anche spettacolari evasioni, condannato a 4 ergastoli dall'8 marzo del 2010 al beneficio del lavoro esterno al carcere, ma sconta ancora gli ergastoli e c'è chi dice questo film va boicottato. Davide Cavallotto, onorevole della Lega, buongiorno. Buongiorno a lei. Perché va boicottato questo film che lei non ha visto, immagino, come... Non ho visto, lo vedrò venerdì, ma ho avuto la possibilità di ascoltare quello che i parenti delle vittime mi hanno detto dopo averlo visto e hanno appunto mi hanno spiegato che questo non è una rappresentazione storica di quello che è avvenuto, ma è una realtà travisata e dove sono stati creati dei personaggi affascinanti, invece quando dei personaggi affascinanti non sono, ma sono degli spietati assassini. Cioè, ma uno che dovrebbe fare un film solo su delle figure positive, non si può fare un film sulle figure negative? Assolutamente no, va benissimo fare il film sulle figure negative, ma basta che questi rispettino la realtà della storia. In questo caso qui ci sono le immagini, ma come è successo già da parte di Michele Placido per il romanzo Criminale, l'altro film che ha fatto sulla banda della Magliana, dove creava dei personaggi affascinanti e dava un'immagine distorta della realtà creando questi falsi miti, tant'è che su Romanzo Criminale, tra l'altro un titolo come questo, Romanzo Criminale, io l'avrei chiamata Tragedia Criminale, si sta parlando di persone che hanno ucciso altre persone, che sono stati degli assassini ferrati, io troverei difficoltà a dare un messaggio in un film in questo modo, soprattutto perché diamo un messaggio sbagliato anche alle giovani generazioni. Vallanzasca, Gli Angeli del Male, almeno il titolo questo, Gli Angeli del Male, le piace il film? Ma ripeto, io non mi soffermerei sul titolo, adesso io nell'altro caso ho fatto l'esempio perché era paradossale che lo chiamasse romanzo, però è il messaggio che si va a creare. Io faccio parte della Commissione Cultura della Camera e sono anche il responsabile del Movimento Giovanile della Lega Nord e io credo di avere una doppia responsabilità in questo senso. Io ho sollevato questo problema perché il messaggio che viene fuori da un film di questo tipo è un messaggio del tutto sbagliato che non dà neanche giusta dignità e rispetto ai parenti delle vittime che stanno continuando a soffrire e che stanno vivendo un ergastolo di solitudine. È vero, nel senso che non possono tornare. Insomma, secondo lei va boicottato. Io intanto voglio salutare Michele Anselmi che collabora con Riformista e anche con il Secolo XIX. Michele, buongiorno. Salve, buongiorno. Michele qua. Invece ha visto il film, ne ha scritto sul Riformista, l'ha visto il film in anteprima. Michele, intanto è una genesi un po' strana di questo film, già non ha ricevuto un euro, credo, di contributo dallo Stato, questo possiamo precisarlo? Sì, è stato presentato 3 o 4 volte, prima per delle ragioni più, diciamo, economiche legate alla società che lo produceva, poi probabilmente a un clima generale che si è creato dopo l'anteprima alla Mostra di Venezia, alla fine il film non ha ricevuto un euro e siccome c'è una casa produttrice forte che è l'americana 20th Century Fox, quella della musichetta che tutti conosciamo, alla fine si è deciso che era meglio farlo comunque, farlo con i soldi americani e non insistere. Infatti Michele Placido ha anche detto in Italia non l'ha voluto lui, vabbè, poi è anche un po' sempre polemico, no? Sempre molto agguerrito. Lui Michele è molto Placido, vittimista, è anche un po' fumanzino, poi inventa, poi però c'è un problema vero, al di là del finanziamento che non c'è stato, la stessa cosa avvenne 2 anni fa con il film, peraltro serio, teso e per niente compiacente, su Sergio Seggio e la Susanna Ronconi che si chiamava La Prima Linea. Esatto. Cioè io credo che non sia giusto che ogni volta che si toccano dei temi che in qualche modo urtano anche legittimamente le associazioni delle vittime o i familiari delle vittime scatti questa sorta di discorso che poi si trasforma in censura anche politica da parte del ministero e in generale da alcune forze del centrodestra, per cui alla fine poi non viene fuori un soldo perché questo film perché questi film sarebbero offensivi, sarebbero irrispettosi. Ecco, ma a questo proposito, Michele, tu che l'hai visto questo film, è davvero così offensivo? Per esempio, sulla prima linea io ricordo che ci fu la polemica di chi dice vengono tratteggiati Sergio Segge e Susanna Ronconi da personaggi come Giovanna Mezzogiorno e non mi ricordo neanche chi, Scamarcio forse era Sergio Segge, cioè personaggi belli che quindi danno questa immagine positiva quasi, no? Ma è un'accusa che secondo me non sta in piedi. Ora, il cinema è il cinema. Quando negli Stati Uniti si fa un film su Dillinger, si prende Johnny Depp. Quando negli Stati Uniti si fa un film sul vero bandito ancora in vita che ha ucciso molte persone, Frank Lucas, il boss nero della droga, si prende Denzel Washington. Oppure in Francia, quando si fa un film su Jacques Merin, un bandito degli anni 70 molto simile al nostro Vallanzasca, si prende un attore importante come adesso mi sfugge il nome, come il marito della Bellucci, ecco. Chi è? Vincent Cassel, no? Sì, Vincent Cassel. Accidenti, so delle cose di cinema anch'io, incredibile. Per dire, poi Sergio Segge e la Ronconi non è che fossero brutti da un punto di vista fisico, tantomeno va all'anzata. No, anzi, il bel René viene. Ma tra l'altro, allora, onorevole Cavallotto, le voglio fare sentire due voci. Intanto le farò sentire la voce di Renato Vallanzasca. Questo lo disturba? La disturba? No. La nostra Raffaella Calandra l'ha intervistato. Ma poi prima le voglio far sentire quello che ha detto il regista Michele Placido, intervistato dalla nostra Marta Cagnola, che la sentite sempre, anche spesso nel GR Spettacolo alle 8:10, 8:15. Sentiamo Michele Placido che ha detto di Vallanzasca. Il vero criminale è quello che si assume la sua responsabilità criminale e quando affronta un momento difficile, che può essere un'uscita dalla banca con la pistola in mano, affronta la morte, non uccide a sangue freddo, uno, non fa saltare in aria innocenti con roba come ha fatto la mafia o il terrorismo politico di destra o di sinistra. Questa è la differenza fra Vallanzasca e l'altra tipologia criminale. Allora, questa tipologia criminale che ha fatto saltare i treni, vediamo la strage di Bologna, vediamo le stragi mafiose, sono fuori dal carcere. Vallanzasca, che ha avuto una sua etica comportamentale, sta ancora giustamente all'ergastolo, però è l'unico che paga per tutti. Allora, onorevole Cavallotta, ha sentito, ha avuto un'etica comportamentale nel suo essere criminale, Vallanzasca. A me viene da ridere e soprattutto mi viene da piangere, ripeto, per i parenti delle vittime. Un criminale che lo stiamo romanzando con un'etica che ha ucciso un poliziotto con due colpi di pistola alla schiena. Non in faccia, alla schiena, quando è stato fermato all'uscita di Dalmine per una perquisizione. Sì. Un personaggio che ha un'etica che probabilmente, perché da quello sembra una un'etica storia criminale, vera, che abbia tagliato la testa a un suo compagno di battaglia in carcere e ci abbia giocato a pallone. Ma secondo voi questa è etica? Allora la politica ha il dovere di intervenire davanti a questi messaggi e soprattutto ha il dovere, anche quando, ad esempio, è successo, prima ho sentito il Michele che stava appunto dicendo che Placido molte volte inventa. Il problema è proprio questo, che lui inventa e romanza delle situazioni e poi, permettetemi, caspita, ma ogni volta che parla di qualche fatto la banda della Magliana, la mafia, il Vallanzasca, ma io lancio una provocazione positiva a Placido, ma faccia un bel film di un'immagine positiva del nostro paese. Io non penso che esista solo mafia, ma lei parla come Berlusconi, che ha detto bisognerebbe boicottare la piovra all'estero perché dà l'immagine negativa del paese, no? Ma allora guardi, la sinistra va boicottato il mercante di pietre solamente perché stava descrivendo un'immagine estremista dell'Islam fatto da Martinelli. Sì. E fuori dalle sale c'erano i picchetti dell'estrema sinistra che non faceva entrare all'interno. Martinelli è quello che ha fatto il Barbarossa, quello che si dice il regista della Lega, così viene brutalmente definito. Ma vedete, anche sul discorso del Barbarossa, a parte che Placido ha dato i numeri come probabilmente è solito fare, ma il discorso del Barbarossa è un messaggio che in definitiva, alla fine, è un messaggio positivo, è un messaggio di speranza, è un racconto storico di quello che è avvenuto, ma non è romanzato sui fatti reali. Qualche testa è volata anche lì con Barbarossa. Ma va bene, ma ho capito. era una battuta, mi lascia andare a dare le informazioni sul traffico. Qui la questione però diventa anche politica, insomma. Barbarossa, il regista, Martinelli è quello che ha fatto il regista su Barbarossa, comunque è un messaggio positivo. Placido invece fa i film, fa la piovra, parla di mafia, parla romanzo criminale, perché poi è tratto dal libro di Cataldo, parla di Vallanzasca. Ma chi è sto Placido? Sempre con i criminali c'ha a che fare. Tra poco anche la voce di Vallanzasca. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Oh, intanto l'ho detto che su Radio24.it molti votati, il 57% di voi per ora dice no, non capiamo l'idea di un boicottaggio, 57% a 43%. Ma voglio sentire per esempio Dina da Udine che ci ha chiamato. Dina, buongiorno. Buongiorno, io mi chiamo Lina. Lina, perfetto. Buongiorno. Lina da Udine. Sì, dunque, io trovo folle l'idea che si possa boicottare qualcosa, perché se un film viene prodotto e viene fatto, quindi chiaramente è fatto, qualcuno l'ha prodotto, no? E quindi non è blasfemo, non prende, non so se mi capisce quello che voglio dire. No, certo. Dopo il cittadino vedrà quello che vuole vedere e poi darà il suo giudizio. Anche se è l'immagine di un criminale, come in tantissime pellicole raccontate in tutto il mondo. Io penso, dalla mia penso questo, io credo che una persona matura possa vedere quello che vuole e dopo dà il suo giudizio. Piuttosto io direi, da cittadina, da occasionale spettatrice della televisione, perché non si boicottano certi programmi, anzi si proibiscono certi programmi televisivi? Sì, dai, sono d'accordo, fa più male Barbara D'Urso che Vallanzasca. Un'immagine ai ragazzi, sì. Non su Vallanzasca o su un romanzo criminale o su altre cose, perché lì bisogna che vadano al cinema, che si guardino il film, e molto spesso nessuno... Io lavoro con i giovani e so cosa vuole, pochissimi danno al No, ma guardi, Lina, sono d'accordo con lei su alcuni programmi. Io ho detto Barbara D'Urso, io non mi è andata giusta comparsata di Francesco Nuti domenica scorsa, se l'avete vista. Pietro da Pesaro, buongiorno. Pietro. Sì, buongiorno. Buongiorno. E come dicevo alla collega, io ho avuto l'occasione di vedere in anteprima il film. Sì. Quindi al di là di quelli che sono, poi giustamente uno decide, non è che c'è da boicottare il film, uno deciderà senz'altro poi dopo averlo visto. Il fatto è che credo si tratti di un problema anche di interpretare quella che è la storia moderna, nel senso i ragazzi di oggi che potrebbero andare, che andranno senz'altro, me lo auguro per l'amor di Dio, a vedere il film, probabilmente non avranno un qualcosa su cui basarsi, perché purtroppo c'è un po' di ignoranza in questo, e quindi non potranno capire realmente Vallanzasca, ce lo vedranno così come è stato dipinto. Io sinceramente dopo 40 minuti di visione del film non sono più riuscito sinceramente ad andare e come, avanti. Come viene dipinto secondo lei? Come un'immagine positiva? Sì, positiva, ecco, nel senso che è attizzato questo eroismo nel compiere determinate azioni, che sono azioni criminali. Però ecco, non viene interpretato, cioè non viene fatto vedere come realmente può essere una persona che ha fatto quello che ha fatto. Va bene, insomma lei dice un po' romanzato e anche non le piace come viene tratteggiato. Voglio chiederlo, ma dopo aver fatto sentire la voce di Renato Vallanzasca, lo chiedevo a Michele Anselmi, che anche lui ha visto il film e ci dà un'idea di come ne esce Vallanzasca. Lo stesso Bel René, intervistato dalla nostra Raffaella Calandra, in una intervista che è stata anche ripresa da vari quotidiani, anche lui è rimasto un po' deluso da come viene tratteggiato nel film. Sentiamo Vallanzasca. Il trattamento è stato quello giusto, visto che non è stato nascosto niente, non è stato neanche ammorbidito, quindi la cosa è nuda e cruda, ma anche non mi sembra che desse il senso esatto di quello che sono. Gli ho detto, dico, senti, mi sembra che leggendo la sceneggiatura, mi sembra di essere, parlando fuori dai denti, una persona non del tutto equilibrata, per non dire un matto scatenato, che non va a letto la sera se non ha fatto qualche disastro e non si alza la mattina se non ha almeno scopato tre donne. E questo non sono io. Allora, Michele Anselmi... Guardi, volevo dire una cosa, che un celebre produttore americano diceva: se ho un messaggio da lanciare, chiamo l'ufficio telegrammi. Ora, non è scritto da nessuna parte che un film debba servire per lanciare messaggi. Detto questo, due cose molto molto veloci. Uno, Michele Placido ha fatto decine di film come attore e molti film come registi. E tra questi film, come regista, ce ne sono alcuni molto belli che non parlano solo di romanzi criminali. Ce n'è uno su una giovane maestra comunista negli anni 50, ce n'è uno sui raccogliatori di neri di pomodori, ce n'è uno su Giorgio Ambrosoli, sull'eroe borghese, sì. Ce n'è uno sul dopomorte, è una specie di storia fantastica che si chiama Ovunque sei. Quindi non è che sia fissato con quel mondo e solo con gli angeli del male. Due, non si può fare un film contro il tuo personaggio, puoi raccontare quel personaggio e far emergere via via il suo milieu, il mondo in cui è nato, il mondo in cui si è mosso, però con un po' di oggettività bisogna riconoscere, secondo me, che Kim Rossi Stewart fa di Vallanzasca, appunto il bel René, una figura invece molto inquietante, anche odiosa. Dico anche per i modi gentili con cui lui si comporta verso i rapinati, insomma viene fuori un sorriso di ghiaccio per certi versi, un uomo, uno sbruffone, un narcisista, un esaltato, anche un mitomane, un ignorante, uno che si affida ai mass media senza rendersi conto che un po' alla volta quei mass media finiranno col raccontare ciò che lui dice. E quindi non è un personaggio positivo, non è un personaggio eroicizzato. E poi insomma basta, bisogna pure riconoscere che il nostro cinema in questi anni ha raccontato molte volte dei criminali incalliti, sì, penso a, che so, Vancini con la banda Casaroli, penso a Lizzani con Luciano Lutring e con Cavallero. La banda del mito, sì. Insomma, non è che ogni volta si può raccontare la storia di un criminale dalla parte delle vittime. Un'altra cosa è invece avere rispetto nei confronti delle vittime nel raccontarle, nel momento in cui si applica quel punto di vista. Mimmo Calopresti, quando fece un film sul terrorismo rosso con Nanni Moretti, che si chiama La seconda volta, applicò solamente il punto di vista di una vittima. Io devo fermarmi qui, in tanti ci hanno chiamato, mi hanno detto dalla redazione che ci ha chiamato anche Pasquale Squitieri che voleva intervenire, ma io tra 10 secondi ho chiuso, quindi lo saluto e lo ringrazio. Ringrazio così anche l'onorevole Davide Cavallotto della Lega, e ripeto Michele Anselmi, riformista e secolo XIX, collabora con questi quotidiani. Non so, a me l'idea del boicottare una cosa già mi prende un po' male, però insomma vedremo. Intanto il 57% dice no, boicottare proprio no. Staremo a vedere come verrà accolto anche dal pubblico questo film su Vallanzasca. Grazie a Antonella Migliaccio, tornata dalla sua febbre, in redazione, e Peter Bescapè in regia. E allora do la linea a Oscar Giannino, noi ci troviamo domattina alle 7:20.